Appunto, nella musica blues poi ci sono anche i racconti del quotidiano, della vita quotidiana, amori, dolori, problemi di lavoro, un pochettino quello che succede oggi. Ma sì, e come dicevamo prima, il blues è una musica dell'anima, è tutto quello che ci pervade dentro, tutto quello che ci succede, tutto quello che noi speriamo che possa accadere è blues. E forse noi qui in Italia lo chiamiamo in un modo diverso, però la vera essenza del blues è proprio questo, perché il blues nasce nei campi di cotone, nasce soprattutto dal lavoro, dalla fatica, ma soprattutto anche dalla speranza dell'uomo o della donna che canta il blues di migliorare la sua condizione, diciamo, nel sociale. Senti, il tuo negozio di dischi, ricordiamo un musical box, un negozio che ha rifornito tante radio ad Atri, ma che era conosciutissimo anche a Pescara, perché io ho lavorato per qualche tempo da Ferri Dischi, e un pochettino i pescaresi diciamo sempre di Atri, ma ad Atri c'è un negozio di dischi un po' particolare, che ha delle cose abbastanza particolari. Ecco, io voglio chiederti questo: c'è, prima di iniziare con la musica, c'è un disco, un artista al quale tu sei proprio, dici, questo è il mio album, questo è il mio cantante? Ma sinceramente, Carlo, devo dirti che la mia cultura musicale mi concede l'aspetto di conoscere tanta musica. Non ho un genere in particolare, perché sinceramente io amo la musica in tutto quello che sono le espressioni della musica. A volte mi piace sentire della musica classica, sinfonica, mi piace sentire molto il jazz, dal quale io diciamo provengo, anche avendolo studiato un po'. Ma tutta la musica, a me piace moltissimo la musica tradizionale dei paesi balcani, mi piace la musica dei paesi latini, mi piace la musica brasiliana, mi piace la musica argentina, il tango, mi piace la musica del Venezuela, mi piace la musica cubana. Cioè, la musica per me è un fatto di, diciamo, di DNA. A me non, cioè, per me esiste la musica, non esiste il piacere. Chiaro, se dovessi dire qual è il musicista che più diciamo mi emoziona o straordinariamente mi prende, sinceramente avrei delle difficoltà, però un nome lo voglio fare, un nome di un personaggio che ieri o l'altro ieri ricorreva il 50° anno della sua morte. Il suo nome è Otis Redding, colui che è morto in quell'età dove sono morti tanti musicisti, cominciando da Jimi Hendrix e tanti altri musicisti, da Jim Morrison e tanti altri che sono morti a quella età. Lui è morto disgraziatamente in un incidente aereo, ritornando da una tournée col suo aereo personale. E Otis Redding, secondo me, diciamo ancora oggi, è uno che quando lo ascolto sinceramente mi dà delle grandi emozioni, ma sinceramente non è l'unico, potrei dirne altrettanti, capito? Anche nell'ambito del soul, del rhythm and blues, ma soprattutto nel blues, ma anche soprattutto nella musica che dicevo prima, nella musica tradizionale, nella musica africana. Cioè, sinceramente, parlare di musica con me vuol dire aprire un libro talmente grande di numero di pagine, che sinceramente non ho un preferito particolare. Mi piace quello. Mi piace anche la musica italiana buona, quella dei cantautori. Potrei dire qualche nome: De André, Fossati, Paolo Conte, Enzo Gragnaniello, Pino Daniele. Per quanto riguarda, diciamo così, chiamiamoli tra parentesi, personaggi o cantanti minori italiani, cantautori minori, qualche tu... ha dettato, diciamo, una strada straordinaria nell'ambito blues bianco. Lui mi raccontò una storia straordinaria quando venne ad Atri. Ecco, teniamo presente che lui è stato 2 giorni ad Atri in una maniera veramente meravigliosa, perché poi con lui c'era la moglie che lo accompagnava e anche la figlia. Sì, sono venuti qui e sono stati i nostri ospiti. Poi lui ci ha deliziato anche di un workshop che ha fatto la mattina. lì nel cortile del Palazzo dei Duchi d'Acquaviva, al quale workshop sono intervenuti parecchi armonicisti venuti da ogni parte d'Italia. E ci sono delle testimonianze, lui ha suonato un po' con tutti, ha spiegato un po' la sua tecnica. A me mi ha ricordato, perché sapendo che io suonavo la chitarra, mi ha ricordato Mike Bloomfield, il grandissimo chitarrista bianco che diciamo è stato suo compagno di tante battaglie diciamo blues. E lui mi ha raccontato un particolare straordinario, che quando loro andavano nelle strade del Mississippi a trovare questi musicisti neri, e allora Mike Bloomfield aveva un visiaccio brutto, che ogni volta che prendeva in mano la chitarra doveva far sfoggio di tutta la sua tecnica, di tutto il suo modo di suonare così irruento, di mettere miliardi di note comunque. Allora una volta incontrarono un vecchio musicista che gli disse: ragazzo, tu devi andare piano, perché il blues è qualcosa di lento, non servono tante note per dire quello che vuoi dire, le tante note non ti fanno capire e io non capisco che cosa vuoi dire. Tu devi parlare e devi suonare in un modo che tutti possono capire. E da quel giorno Mike Bloomfield cominciò a suonare molto più lentamente. Ed è qualcosa, perché queste poi sono le storie che, se te le racconta chi l'ha vissuta di questi grandi personaggi, tu gli devi credere, perché loro l'hanno vissuta e te lo raccontano con una semplicità, con un trasporto, con un pathos. Io ho tanti ricordi in questa manifestazione, 15 anni non è che si dimentica così, ma soprattutto voglio dire che tutti quelli che sono venuti a suonare qui hanno avuto tutti quanti delle parole straordinarie da spendere per la bellezza della nostra città, ma soprattutto per l'accoglienza che ricevevano, perché noi non abbiamo lasciato mai nulla al caso, abbiamo sempre cercato di soddisfare quello che erano le loro esigenze. E io ho avuto a che fare anche con artisti difficili, uno in particolare, Papa Ciabbi, che è uno degli artisti più complicati che il mondo del blues diciamo porta sulla sua strada. Eppure Papa Ciabbi un certo momento dovette arrendersi alla nostra, come dire, alla nostra intelligenza di capire che cosa lui volesse. Dunque, e quando lui mi disse: ma perché siete così ospitali, così parsimoniosi? Io gli dissi solo una cosa: se io ti faccio diventare nervoso, tu sopra al palco non dai quello che devi dare. Allora io voglio darti tutto quello che tu chiedi. Io ti ho preparato anche un retropalco con tutto quello che mi aveva scritto l'agenzia. Tu non l'hai toccato per niente, però io te l'ho preparato. Metto: sì, io l'ho visto, però siccome non volevo mangiare prima del concerto, però ho capito la vostra gentilezza e la vostra disponibilità, e allora io questa sera farò un concerto memorabile. Quella sera non so quante persone c'erano, e Papa Ciabbi, come Charlie Musselwhite, è rimasto veramente soddisfatto di questa accoglienza che noi riuscivamo a dare. C'è stato un artista che avresti voluto portare ad Atri e che non ti è stato possibile, e oppure ti è sfuggito così per un pelino? Beh, io ho avuto sempre un pallino, ma era un pallino un po' particolare, che anche usciva un po' fuori dalla logica del blues più tradizionale. Io avrei voluto portare ad Atri Robben Ford. Non ci sono riuscito perché un anno aveva annunciato la sua tournée e poi non l'ha fatto. L'anno successivo poi, sinceramente, lui veniva con una formazione abbastanza larga, i suoi costi erano molto molto molto grossi per noi, però anche l'agenzia che lo portava mi disse: guarda Vincenzo, a costo di fartelo fare non voglio guadagnarci niente, però te lo faccio fare. Però anche lì il costo era abbastanza grande, e quello Robben Ford mi è rimasto un po', come dire, in gola, perché avrei voluto offrire la sua presenza qui ad Atri, perché forse era la ciliegina che ci mancava, quantomeno diciamo a un certo livello. Mississippi Mood a Radio Cerrano Web, quando sono le ore 21 e 24 minuti primi. Siamo rigorosamente in diretta, e siccome stanno arrivando diversi messaggi WhatsApp, io vi ricordo il numero 320 49 52 977, ripeto 320 49 52 977. So che ci stanno ascoltando diversi ragazzi in Europa che sono triani, quindi facciamo un pochettino da collante. Ecco, se ci state ascoltando, messaggiateci, fateci contenti. E adesso passiamo a un brano di Bo Carter, Corinne. Di cose, il brano veniva registrato direttamente sul giradischi, vero Vince? Sì, prima non esistevano tutte queste diavolerie di oggi, che si possono registrare più tracce. Prima si faceva quella traccia lì, si andava in diretta e non si poteva sbagliare, ecco perché la grande straordinarietà di questi musicisti, che non si curavano assolutamente di dire ma qui non va bene, loro sapevano che era una botta e via, insomma, e così come fece Robert Johnson hanno fatto tutti gli altri che sono venuti dopo di lui, insomma. adesso così Bo Carter è un musicista che faceva parte di una famiglia straordinaria di musicisti, i fratelli, addirittura Sam Chetmon, lui era Armenter Chetmon, nato nel 1893 e morto nel settembre del 64. Era conosciuto come Bo Carter, ma lui proveniva da questa famiglia Chetmon che aveva musicisti straordinari, addirittura Sam Chetmon, che è stato anche lui un grande chitarrista, ma nell'occasione suonava anche il basso e il violino. Diciamo che qui stiamo parlando di gente che fosse vissuta oggi probabilmente avrebbe avuto più fortuna di quello. Che hanno avuto allora, si sono dovuti accontentare un po' di fare una vita di sacrifici e di raccogliere poco e niente, insomma. Quindi diciamo che gli artisti, i musicisti blues di quel periodo non navigavano nell'oro. Ma no, questi musicisti diciamo suonavano in questi juke joint, suonavano in questi locali particolari, locali di legno, dove la gente la sera andava, i neri che venivano dalla campagna, dai campi di cotone, andavano ad affogare i loro drammi in un bicchiere di birra, in un bicchiere di vino, e ascoltavano questa musica che non faceva altro che alimentare ulteriormente questa disgrazia della vita. E però per loro diciamo era un modo di vivere. E anche questo musicista che andremo a presentare oggi, Ishman Brasey, ed è lui anche è nato in una piccola cittadina nel Mississippi, ha cominciato a suonare nei juke joint, nei locali più strani, si accontentava solamente di guadagnare qualcosa da portare a casa alla moglie e ai figli e di perseguire la sua passione, perché per loro suonare non era solo un discorso di guadagno, perché il guadagno per loro era sempre aleatorio, ma loro era la passione che li portava a girovagare per queste cittadine, e quando riuscivano a guadagnare qualcosa il loro primo problema era quello di portare a casa tutto quello che serviva per dar da mangiare alla famiglia, insomma. Ecco, questo era lo spirito principale. Allora adesso ascoltiamo Ishman Brasey con Saturday Blues. Dear, oh dear, me and I be sure. Dear, oh dear, to me and I. Be sure, dear, oh dear, to me and I. Now, ma, be the woman. Pocket change in my sometime woman won't do the same in you. Did I lead my people get you here? Don't never lead my people get you here. Cause it ain't no telling but she might do not, she might touch and she might shoot you tonight. She might touch you, she might shoot you too. Though she might touch you, she might shoot you too. Now she's the meanest woman that I've ever seen, and when I take the water, give me gasoline. Take the water, give me gasoline. Lord, take the water, give me gasoline. Now if you want your woman to look like the rich you buy, high brown powder, farmer, can't succeed you buy. High brown powder, farmer, can't succeed. High brown powder, farmer, can't succeed. Now got four, five puppies, got one shaggy hound, it takes all them dogs to run my women down and take all them dogs to turn my women down. Take all them dogs to turn my women down. Not done, four, five puppies got fun. Take it, honey, take all them dogs to run my women down. It takes all them dogs to run my women down. Takes all them dogs to run my women down. Allora, noi stiamo parlando un pochettino del più e meno con Vincenzo, soprattutto dei suoi cari figli, due grandi musicisti, sono Alex e Gianmaria, che rispettivamente hanno due scuole di musica, vero Vince? Sì, Gianmaria ad Atri qui in via Santa Chiara e Alex, Alessio, come lo chiamo io, a Giulianova. E diciamo che cercano di indirizzare i bambini allo studio della musica con grossi profitti, perché molti sono i musicisti che sono usciti dalle loro idee, dalle loro mani e dalla loro sapienza, diciamo, come dire, sono ragazzi che hanno cominciato da molto tempo fa a frequentare la musica, hanno fatto gli studi giusti, necessari affinché la musica diventasse una professione, e la pazienza che ci vuole per insegnare ai ragazzi è straordinaria. Difatti Gianmaria è quello che è più longevo, perché sono la bellezza di tanti anni che lui insegna e lo fa con grossi profitti, insomma. Ecco, io voglio informarvi e ricordarvi, lo ha già detto Carl nelle scorse puntate, che Alex Ricci è poi il chitarrista di un gruppo abbastanza quotato, gli Apre la Classe, che prego Vincenzo di presentare musicalmente. Beh sì, gli Apre la Classe, Alessio è entrato in questa band 10 anni fa, loro sono venuti ad Atri a suonare in un primo maggio, allora organizzato da ragazzi di Atri, ed era anche una manifestazione che stava riscuotendo un grosso successo, ma soprattutto una grossa considerazione nella zona, e loro sono stati invitati, questi ragazzi degli Apre la Classe sono stati invitati a suonare ad Atri, e Alessio in quell'occasione suonava in trio con Dwayne Thomas al basso e Andrea Martella alla batteria. Loro l'hanno sentito, siccome avevano in animo di cambiare il chitarrista, appena hanno sentito Alessio gli hanno fatto la proposta. Io colgo l'occasione per salutare Marco, Francesco e Luigi, che ci hanno fatto una dichiarazione di ascolto su WhatsApp 320 49 52 977. State ascoltando Mississippi Mood con Vince Butterfly, Vincenzo Melchiorre Ricci, lo ricordo, musicista blues, uno dei più grandi esperti di blues in Italia ed organizzatore, patron del mitico Green Hills Blues Festival di Atri, e con Carlo Micheli che sta sostituendo un grande storytellista, Carlo Bartelboom. Parliamo sempre di storytelling un pochettino. È questa la linea editoriale che stiamo dando alla radio, diciamo, con programmi blues, ecco, dal punto di vista della programmazione, della conduzione, con tempi, diciamo così, molto lunghi. Vi ricordo che le grandi radio, i grandi DJ hanno dei tempi cortissimi, hanno addirittura dei tempi che devono rispettare, invece noi, Vincenzo, ce la prendiamo bello alla... Ma grande, sì, no? Comodo, con la nostra bottiglia di vino. Carlo, io voglio solamente salutare i nostri amici degli Apre la Classe nel Salento, anche perché tu questa sera hai aperto una bottiglia straordinaria, un Sole Moro primitivo del Salento. Dunque, come dire, musica del Salento e vino del Salento. Certo, tu adesso potresti dirci un pochettino, la musica salentina ha avuto un grandissimo successo in Italia. Pensi che sia stata un pochettino supportata anche da un discorso turistico che lì hanno fatto alla grande per la promozione dei luoghi? Ma Carlo, parlare del Salento è parlare di una parte della Puglia che, diciamo, fa un discorso a sé. Giù c'è un'energia straordinaria, tanto che anche la politica, diciamo, si è accorta di questa grossa energia, ha favorito l'esplosione di quello che è questo connubio del Salento come luoghi turistici, ma soprattutto come entità musicale. Nel Salento si ascolta della musica straordinaria, musica tradizionale salentina. Noi dobbiamo anche capire che il Salento, ci sono zone che ancora parlano la lingua greca, il grecale, e dunque hanno delle influenze straordinarie. E poi il Salento, c'è da dire una cosa, che tutti i bambini vengono iniziati alla musica, prima col tamburello e poi piano piano con gli altri strumenti, la fisarmonica, le chitarre battenti. Io vedo anche nella band degli Apre la Classe, dove suona Alex, vedo, sono tutti musicisti di una grossa cultura strumentale, cioè non è lasciato nulla al caso. E anche la Regione Puglia ha investito moltissimo affinché questa parte di questa regione avesse il giusto riconoscimento. Non a caso la Notte della Taranta, che poi è il discorso finale di quello che succede in tutto il Salento, perché ci sono tante notti della Taranta, che poi a Melpignano si consuma l'ultima notte, dove ci sono 200-300.000 persone, dove noi siamo stati una sera ospite degli Apre la Classe, e praticamente, diciamo, lì si può ascoltare il meglio del meglio. E la cosa bella è che ogni anno cambiano un arrangiatore che può essere nazionale o internazionale, e questo porta all'interno di questa cultura musicale, porta anche la sua cultura, e c'è un mix straordinario, perché tu senti questi suoni che fanno parte del mondo della musica, e li ascolti anche giù, che hanno questo connubio con la musica tradizionale e la musica internazionale. Vince, tu hai fatto da maestro a tanti ragazzi sia di Atri che del circondario. Vuoi ricordarci qualche tuo allievo, insomma, che se la cava abbastanza bene? Ma io, Carlo, guarda, io ti posso dire una cosa, io sinceramente allievi non ne ho mai avuti. Io, quando qualcuno mi ha sempre chiesto qualcosa, mi ha chiesto magari di dirgli qualcosa, io gli ho sempre detto: tu devi seguire il tuo cuore, io non ti posso imparare, io ti posso raccontare. Ti posso raccontare come sto raccontando in questa radio. Io ti racconto quello che io ho vissuto, quello che io vivo, quello che è la mia anima e quello che è il mio approccio con la musica. tu devi essere te stesso, devi esprimere le tue passioni, devi esprimere il tuo essere in musica, altrimenti non sarai mai un musicista vero. Io l'ho vissuto in famiglia, con tutti e due i miei figli, loro hanno ascoltato di tutto e di più, però se io vado a sentire Gianmaria o vado a sentire Alessio, io riconosco il loro suono, loro hanno un suono, perché è un suono loro, che si sono costruiti da solo. 21 e 43 minuti primi, Mississippi Mood, la storia del blues con Vince Butterfly. Adesso ascoltiamo Blind Joe Reynolds con Married Man Blues. When you leave with your money, please don't lose your mind. When you leave with your money, please don't lose your mind. When you lose your woman, please don't fool with mine. And you married men, how to keep your wives at home. How to keep your wives at home. Get your job and roll for the man and try to carry your labor home. Try to carry your labor home. Are you mad women? How to keep your husband at home. Are you mad women? How to keep your husband at home? Take care of your husband's labor and let these single boys alone. Blind John Reynolds, lui è stato cercato da un colpo di pistola in faccia nella Louisiana verso la metà degli anni 20, al quale lui è stato provocato questa perdita fisica nei suoi occhi. Lui era un grande musicista, un grande chitarrista, usava il famoso Boodle Neck per suonare la chitarra. Era un uomo molto schietto, generoso, era conosciuto soprattutto per essere un uomo al quale piacevano in particolare le donne. Lui si vantava di essere un poliamoroso e ha avuto tanti problemi nella sua vita e spesso ha usato anche la sua musica come mezzo per attaccare la società, perché lui si sentiva quasi un danneggiato da quello che era la sua condizione fisica, ma soprattutto lui doveva affrontare dei grossi pericoli, dei grossi rischi, il fatto che non riusciva a vedere ed era sempre alla mercé di qualcuno che gli potesse fare male. Blind John Reynolds. Passiamo al prossimo brano, Mississippi, Fred McDowell con Little School Girl. Good morning, Little School Girl. A Radio Cerrano Web quando sono le ore 21 e 50 minuti prima. Good morning, little school girl. Good morning. Can I go home with you? Tell your mama and your pa, Lord, I'm a little. Come on, be my baby. I'll buy. If you don't like that onion, I ain't gonna buy you though. I don't know, Harley. I don't know what to do. I don't mean to hurt your feelings. Lord, I'm getting mad. I'm gonna fly from town to town. I don't find a girl I'm looking. I ain't gonna let my ass. on by me. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'd buy you a diamond ring. If you don't like that, honey, I ain't gonna buy you a door. Mississippi, Fred McDowell, uno dei brani più suonati della musica blues, anche da musicisti moderni, Good Morning Little Fool Girl, un brano che ha segnato, diciamo, anche lui un'epoca del blues. Ricordiamo che siamo su Radio Cerrano Web, Carlo. Sì, radiocerrano.net, la nuova web radio della costa adriatica, una radio ideata da noi, da vecchi, parliamo un pochettino dei vecchi sodali di Radio Triuno, ci siamo, diciamo così, riciclati con gioia in questo mondo. Per noi è stato molto difficile avere a che fare con software, computer, però poi la grande passione per la radio ha prevalso su tutto e su tutti, anche se abbiamo dovuto studiare un po' di informatica, ma siamo veramente felici di poter coltivare ancora questa nostra passione per la radio, alla quale abbiamo dato il, come si dice, il meglio della nostra gioventù. Poi Vincenzo, tu ti ricordi bene di Radio Triuno e della grande discoteca che aveva, fornitissima, noi venivamo da te e questo è stato anche, è stata una grande scuola un pochettino per tutti, ma anche come formazione musicale. Tant'è che io poi sono andato a lavorare in un grande negozio di dischi a Pescara e non mi sono per affatto trovato a disagio tra quei dischi. Beh sì, e diciamo che oltre a ricordare le radio dovremmo anche ricordare quelli che erano le anime di queste radio. Enzo Chiatamone. Sì, che salutiamo se l'ascolto. Ciao Enzo. Pinuccio. Pino, grande Pino, che è una grandissima raccolta di dischi, anche da discoteche, e poi era anche il DJ dello Studio Club 80. Certo, Vince era un'altra Atri di quei tempi, insomma. Beh sì, un'altra Atri. La piazza era sempre piena, ricordiamo un po' quei tempi. Beh, diciamo che Atri... Cosa vedi di cambiato? Secondo Ma cosa vedo di cambiato? Atri è cambiata, diciamo che purtroppo ha subito anche un po' l'ingiuria dei tempi. Atri ha perso tante di quei servizi, ha perso qualcosa che faceva vivere il centro storico, le scuole che sono state un po' dislocate, anche se adesso qualcuna è ritornata in centro storico, però ecco, diciamo che il tribunale, che era un via vai di avvocati, di gente che Poi si fermavano anche da te. Ma sì, io ancora incontro avvocati durante il mio peregrinare per Atri, che mi chiede ancora dove è il mio negozio. Dico, guarda lì, quel portone verde chiuso perennemente, lì era il mio negozio. Poi io voglio ricordare un fatto, un particolare, a proposito del negozio di dischi di Vincenzo. Io lavoravo in un hotel di Atri, ad un certo punto rientra Greg Lillo dei Due Comici, no? E mi fa: io ho trovato un negozio di dischi di blues, perché poi lui suona in un gruppo blues, sì, latte, sì, i suoi derivati, una cosa del genere, insomma, e dice, io ho trovato un negozio, cioè un negozio così fornito di dischi di musica blues, mai visto in vita mia. Era Musical Box, correvano gli anni 90. Stranamente quel giorno non ero in negozio io, c'era mio figlio Gianmaria. Che diceva, insomma, faceva, era molto bravo a... Sì, sì, Gianmaria era molto perspicace, soprattutto lui rimaneva volentieri nel negozio e riusciva a districarsi molto bene. Come ho detto già nelle scorse volte, lui era capace anche di alzare un po' gli incassi, perché non si faceva trovare mai sprovvisto, anzi consigliava pure, diciamo, della buona musica anche lui. Allora, poi io voglio ricordare un particolare, adesso ho la possibilità di farlo. Tante volte facevamo noi della radio, io e Augusto, facevamo arrabbiare Vincenzo, perché a quei tempi c'erano le cassette con diverse tipologie di, diciamo così, chimiche, cromo, il biossido di cromo, il ferrocromo e via dicendo. Tante volte io, soprattutto Augusto, si inventava una formula chimica, come che ne so, il biossido di alluminio, e andavamo da Vincenzo a chiedere questa tipologia di cassetta. Vincenzo iniziava a guardarsi intorno, a guardare lo scaffale delle cassette. Poi, spazientito, diceva: senti, io ho le cassette al cromo, al biossido di cromo, al ferrocromo, al biossido di alluminio non ce l'ho. Vabbè, erano quei tempi, insomma, in cui si andava da Vincenzo a fare un po', a parlare di musica, a fare un po' di tutto. Sono le 22 in questo preciso istante, state ascoltando Mississippi Mood con Vince e Carlo Micheli, che questa sera è in regia, ma sta sostituendo anche al microfono Carl Barthelboom, che è il nostro direttore artistico, responsabile della comunicazione di Radio Cerrano Web. A lui va un particolare ringraziamento per avermi sopportato in questa avventura, e veramente ha fatto un grandissimo lavoro. Ma soprattutto io ho visto un Carl veramente entusiasta, forse più di me, vero Vince, insomma, sì. Carlo è stato sempre un appassionato di musica, e soprattutto è stato un conduttore sempre fine, sì. Molto ma molto addentro alle cose, ha sempre detto le cose vere, le cose giuste, perché lui ha sempre studiato. Io gli dicevo: Carlo, ma hai studiato? E lui diceva: sì, ho studiato quello. Diciamo, la particolarità di ognuno di noi che poi parla in radio, essere, diciamo, il più attento possibile a quello che si dice, a raccontare, perché non è che puoi raccontare cose che non hai vissuto, soprattutto che non sai, perché qui stiamo parlando di musica e la musica è una cosa seria. E va bene, poi non abbiamo lo slang milanese, non abbiamo lo slang romano, non abbiamo... Beh, vabbè, noi siamo abruzzesi, siamo fieri di essere abruzzesi, abbiamo... Abbiamo una gran... siamo orgogliosi della nostra cultura. Abruzzo terra di blues, Abruzzo, Carlo. Terra di blues. Allora, Vincenzo, mi dai là per far ascoltare il prossimo brano, che è di Lightning Hopkins, Woke Up This Morning. A tutti buon ascolto. This morning I woke up this morning. Yes, poor lightning, show us, please. Whoa, I woke up this morning. Yes, poor lightning, show us, please. Whoa, I heard somebody call it. That was my little girl calling me. She called kind of lonesome, she said. Darling, do you know something keeps on worrying me? Whoa, oh, Lord, help me. Yeah, something keeps on worrying me. Somewhere, but I'm about to wonder where can you be? And I broke down and I cried a little while. I He better come in my kitchen. abbiamo ascoltato Woke Up This Morning di Lighting Up Kings, veramente questo brano specialissimo, Vince. Beh sì, lui non è tipicamente del Delta, ma lui è texano e si sente tutto in questo brano, la sua provenienza. Un giorno faremo anche una trasmissione sulla differenza del blues del Texas e del Mississippi, e anche perché nel Texas sono nati dei grandi musicisti, cominciando da Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, Gary Clark. Steve Ray Vaughan è poi il mio preferito, ricordiamo. Oltretutto sono venuti qui a dare dei musicisti, un musicista in particolare texano che mi ha detto: guarda, io e Steve Ray Vaughan abitavamo a 40 metri di distanza. Poi mi ha raccontato tutta la sua storia. Ricordiamo che Steve Ray Vaughan è morto, era in tournée con David Bowie in quel periodo ed è morto in un incidente in elicottero. E in quel periodo oltretutto pubblicò un brano, addirittura un remake di Stevie Wonder, Very Superstition, in cui nel video, nel filmato c'erano, diciamo così, c'era forse un presagio di quello che poi è avvenuto con l'incidente. Beh, lui in quell'occasione ha preso il posto di Eric Clapton. Era Eric Clapton che doveva prendere quell'elicottero, mentre invece, siccome Steve Ray Vaughan aveva un concerto il giorno dopo, gli ha chiesto il favore di andare lui in modo che potesse essere presente a questo concerto. Sfortuna ha voluto che ci ha tolto uno dei musicisti più straordinari, perché poi Steve Ray Vaughan, racconteremo un po' la storia di questo ragazzo che già a 11-12 anni usava sedersi sotto il palco dei grandi come Albert King, come Albert Collins, come B.B. King, sempre con la chitarra a tracolle, e non aspettava altro che salire sul palco quantomeno per fare un brano con loro. E come diciamo sempre, come dico sempre io, il blues non si impara a scuola, il blues si impara nelle strade, si impara ascoltando il blues. Stavamo parlando anche di un altro grande artista blues, Gary Clark Jr. Vincenzo, un tuo giudizio? Beh, Gary Clark Jr. è oggi, diciamo, l'espressione più straordinaria di un blues attaccato profondamente alle radici. Lui è un nero, però diciamo che ha un modo di suonare molto molto moderno, ma soprattutto è uno straordinario cantante. Oggi forse uno di quei musicisti che può proseguire la strada del blues e indicare nuove situazioni del blues. È il momento di ascoltare Muddy Waters con I Can Be Satisfied. Sì, su questo brano voglio dire solo una cosa, Carlo. Adesso cominciamo ad andare tra quelli un po' più conosciuti. Muddy Waters, diciamo che è un personaggio straordinario, avremo molto da parlare di lui, perché lui è uno di quelli che ha traghettato il blues acustico del Mississippi e l'ha traghettato verso Chicago, dove lui in un certo momento, stufo di stare in campagna tra i campi di cotone, prese la decisione di andare a Chicago e lì cominciò il suo successo negli anni, diciamo, a ridosso degli anni 50-60, per poi esplodere, diciamo, in un modo prepotente negli anni 60 con tutta la produzione della Chess Record. Muddy Waters, I Can Be Satisfied. Don't you wanna go, woman? I'll be all your man. Now, babe, I just can't be satisfied, and I just can't be for granted. Yeah, I feel like pistol in your face. I'm gonna let some graveyard woman be your resting place. Woman, I'll be your wife. My baby, I just can't be satisfied, and I just can't keep on crying. Yeah, now I know my little old girl, she gonna jump and shout. That old train be late, man, man, I come. Woman, I'll trouble, I'll be your. And I just can't keep on varie come le antiche le tradizioni. Qui ringraziamo l'inquilino del piano di sopra per averci supportato. È come dire una radio fatta in casa, perché Marco, vecchio amico di tante, come dire, di tante battaglie anche musicali, ha fatto un nocino, quest'anno ha prodotto un nocino straordinario, mi parla addirittura di 70 gradi, di una, veramente di un sapore straordinario questo nocino, Marco. Allora, Vince, il programma volge al termine, abbiamo in programma l'ultimo brano che è di Son House con Preaching Blues. Vuoi dire qualcosa al riguardo? Sì, ho voluto questa sera, ho voluto finire questa scaletta straordinaria con Son House, perché Son House non deve sembrare strano, ma lui ha tirato una strada molto particolare nel blues ed è una fonte di ispirazione dei gruppi più in voga del momento. Se noi pensiamo che il chitarrista dei White Stripe, grande chitarrista rock, da lui ha preso moltissimo, e ogni volta che qualcuno gli chiede da dove viene questo suo chitarrismo, questa sua conoscenza del blues, lui nomina sempre Son House. Son House aveva un modo particolare di suonare la chitarra, lui non la suonava, la picchiava. Lui suonava una chitarra resofonica, quelle chitarre in metallo, e lui usava picchiarlo. Più che gli accordi usava delle note così quasi prese a caso, però che facevano pandan con la sua voce, una voce possente, una voce evocativa. Ma soprattutto Son House ha avuto l'ardire di indirizzare la sua musica verso lidi insperati, verso la modernità più straordinaria. Son House. Take 3. Yes, I'm gonna get me religion. I'm gonna join the Baptist church. I'm on time. Detroit. Yeah, yeah, yeah, I want to be a Baptist preacher. Yes, so I won't have to worry. And she began to shout. Again.